Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:05 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800240024, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Scrive oggi Luca Ricolfi sulla Stampa in prima pagina, dal titolo Le due verità. Ieri le prime pagine di quasi tutti i quotidiani riportavano la notizia secondo cui più di 1 milione di famiglie non ha i soldi per mangiare e ben 15 famiglie su 100 faticano ad arrivare a fine mese, fonte della notizia l'ultima indagine Istat. Solo i due principali quotidiani di destra, il Giornale e Libero, hanno provato a raccontare un'altra verità, anch'essa sorretta da numerosi dati di segno contrario. Gli italiani, sostengono i due quotidiani, si preparano a trascorrere un Natale non molto diverso dal precedente. Il numero dei vacanzieri in aumento, i buoni affari favoriti e massicci sconti si moltiplicano, le prenotazioni nelle località di montagna sono su buoni livelli, le rate dei mutui stanno scendendo, i prezzi delle case pure. Chi ha ragione? Le due verità, per l'appunto. Crisi è la parola più utilizzata in questi giorni dagli italiani, è inutile negarlo. È un Natale davvero di crisi. Ieri appunto Libero, come ricorda Ricolfi, titolava festeggiano la crisi, centro commerciali pieni, tutto esaurito in montagna, boom di viaggi nelle mete esotiche. Oggi Liberazione in prima pagina mette la foto di una signora anziana con le mani vuote, con dentro solo qualche moneta, come Gesù bambino. Poveri, poveri, poveri. Insomma, crisi, eppure molti italiani, milioni di italiani, magari ci stanno ascoltando in questo momento, sono in viaggio, sempre che si riesca a viaggiare, come Fiumicino e i blocchi di Fiumicino insegnano. E allora parto proprio dal ministro Altero Matteoli. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Allora, la situazione, sempre che si riesca a viaggiare, in aereo almeno, sembra migliorare, nel senso, ieri alcuni voli sono stati tagliati, circa 45, ma sembrano gli strascichi del blocco dell'altro ieri. Però le chiedo, la Stampa oggi li definisce i disperati di Fiumicino, si parla di passeggeri costretti al bivacco, l'arrivo della protezione civile, sono immagini di un paese civile? No. Il problema è questo, io comprendo la disperazione, il problema di chi perde o pensa di perdere il posto di lavoro, però non è bloccando il pubblico servizio che si risolve i problemi e soprattutto non è creando disagi così a tante persone che viaggiano in questo periodo, certamente anche per vacanza, ma ci sono tanti che continuano a viaggiare per lavoro e addirittura a volte anche per temi familiari. Io penso a quelle famiglie che dovevano riunirsi in questi giorni e in virtù di questo sciopero selvaggio, senza essere annunciato, al di fuori di ogni norma di legge, non hanno potuto raggiungere le famiglie, oppure hanno magari viaggi aspettati da tempo, risparmiando per cercare di poter realizzare il sogno. Questo è certamente inaccettabile in un paese. La precettazione che io sono stato costretto a fare ha dato qualche risultato. Ieri ci sono stati disagi, ma ci sono sempre quando il giorno precedente c'è uno sciopero di questo tipo. Oggi le prime notizie che ho pare che si vada verso la normalità. Sì, la situazione pare normalizzata, anche adesso battono proprio le agenzie questa notizia. Senta ministro, la trattativa però sembra rinviata dopo Natale tra la CAI e appunto i sindacati. Insomma, non è che a Capodanno ci risiamo, c'è questo rischio. No, io credo che è stata rinviata, ma credo che si siano raggiunti dei punti fermi e che dovrei dire che sono tranquillo per aspetto con un minimo di preoccupazione, ma credo che siamo vicini all'accordo. E, per Brunetta ci vorrebbe la linea dura, c'è il rischio di sanzioni? La linea dura, cosa potevamo fare? Precettare? Non so, il ministro Brunetta ieri ha detto ora basta, ci vuole la linea dura contro queste cose. Questi scioperi che fanno questo tipo di sciopero rischiano da un punto di vista anche penale, ma qui non è competenza mia, si entra in un altro campo. Io ho il dovere di assicurare il trasporto e ho dovere, non dico come Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, come Ministro, quindi faccio parte di un organo collegiale, ho dovere anche di garantire che in una democrazia si possa anche svolgere un sciopero, ma che sia regolare, che sia annunciato, che sia fatto secondo le norme che democraticamente ci siamo dati. Senta, siamo ancora sotto Natale a parlare dell'Alitalia, non se ne può più francamente, cioè dei disagi dell'Alitalia. Innanzitutto, quando nasce, se nasce questa benedetta CAI e ci possiamo forse buttare alle spalle, insomma, questo parlare di Alitalia sempre in questi termini? Sì, però se ci pensiamo, la trattativa vera e propria è iniziata a fine agosto, quindi in 3 mesi e mezzo, 4 siamo vicini alla soluzione. Dopo 15-20 anni dell'Italia si parla soltanto o si ripianano debiti, o si fa un prestito, o si fallisce l'Italia, o si perdono 17-18 mila posti di lavoro. In 3 mesi e mezzo, grazie a questa cordata di privati che ci hanno creduto e grazie anche a ciò che il governo ha fatto, oggi si parla dell'Italia in termini però di ripartenza, con 12.600 persone assunte, con una cassa integrazione lunga che consente a chi resta fuori dal circuito lavorativo possa usufruire di 4 anni più 3 di cassa integrazione. Quindi mi pare che oggi se ne parla, perché se ne parlava già, se ne è parlato per 20 anni, ma se ne parla per la prima volta in positivo. Cioè, però se ne parla, cioè una fine, non si intravede ancora. L'opposizione diceva: ma come, sembrava tutto chiarito, era facile, ci sono passaggi europei, l'ENAC che doveva rilasciare delle autorizzazioni, ci sono situazioni che sono incrostate che devono essere rimosse, c'è stato questo braccio di ferro dei piloti e non solo, cioè, non è stato facile, però bisogna dare atto a questa cordata che non ha mai mollato. Io a un certo punto ho pensato che mollasse, non lo ha fatto, dobbiamo ringraziarla. È stato pessimista a un certo punto? Detto. A un certo punto per forza, perché questo io francamente lo dico, non ho preso l'atteggiamento di alcune sigle sindacali che non hanno firmato, sarà per mia colpa, non lo dico polemicamente, per carità, però avendo partecipato a tutte le trattative dalla fine di agosto in poi, mi sono reso conto che c'era qualcosa di diverso da quello che stavamo trattando. Non sono riuscito a identificare bene il cosa, ma qualcosa di diverso, perché non era possibile non accettare certe proposte che venivano fatte di fronte all'alternativa che era solo il fallimento, perché se qualcuno aveva pensato che il governo potesse intervenire per comprare o far sì che la compagnia diventasse una compagnia di Stato, questo francamente era fuori da ogni possibilità. Sì. Senta Ministro, 13, cioè, qual è la data? Ci dica, oggi il Sole scrive che il 13 partirà la CAI. A mezzanotte del 12 finisce l'Italia e subentra la nuova Alitalia. Questa è la data definitiva. Sì. Sempre il Sole 24 Ore oggi fa notare che molti tour operator dicono: se vuole volare a gennaio senza preoccupazioni, accetti qualsiasi compagnia di bandiera tranne all'Italia. E che effetto le fa? È un allarme giustificato? Spero che il Sole 24 Ore si rimangi queste parole, perché no, sono uno degli addetti delle agenzie di viaggio, insomma, che dava questo consiglio. Sì, importante. Spero che questo ovviamente non avvenga, perché questo vorrebbe dire far partire la compagnia in salita. Mettiamola alla prova. E allora, Ministro, nel salutarla e ringraziarla, insomma, perché adesso noi continuiamo con i nostri ospiti, ma è davvero un Natale di crisi, appunto, c'è questa, le due verità di Luca Ricolfi, ieri Libero, oggi anche Liberazione, tra l'altro noi abbiamo qui Gianluigi Paragone di Libero e Piero Sansonetti, con cui continueremo, di Liberazione, pongono due verità, appunto, crisi oppure crisi è una parola troppo abusata? No, io non ho paura delle parole, c'è una situazione sicuramente difficile. E certo, grazie a Dio, dico, ci sono italiani che possono ancora consentirsi di viaggiare, il ceto medio alto continua a viaggiare, ma ci sono sacche di disperazione nel paese che chi governa non può assolutamente trascurare. E io sento fortemente questa necessità di interventi. Quello che ha fatto il governo in questo mese va incontro a quello, ai meno ambienti, va incontro compatibilmente con quelle che sono le risorse a disposizione, però certamente si è accentuato il distacco tra coloro che stanno bene e coloro invece che continuano a vivere con 1.100 euro di stipendio al mese, o addirittura coloro che hanno perso il posto di lavoro. Non è un bello scenario, perché questo divario poi porta a rischi di conflitti sociali. Insomma. Chi governa, come io mi onoro di fare, e oggi si sventolasse i giornali che dicono ma tutto sommato non c'è la crisi perché si va in vacanza, a mio avviso sbaglierebbe. Comunque io certamente non mi iscrivo a questo partito. Va bene, Ministro, la ringrazio per essere stato con noi, il Ministro Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli, grazie, e voglio salutare, insomma hanno raccolto le sue parole e ne vogliamo parlare con Piero Sansonetti, direttore di Liberazione. Buongiorno direttore. Così come voglio salutare Gianluigi Paragone, vice direttore di Libero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, vi chiedo una cortesia. Sì. Io ho il volume bassissimo. Adesso infatti, vediamo quello che ha detto. Benissimo, vediamo di migliorare. Comunque, Sansonetti, c'è, io vorrei partire da lei, Sansonetti. Sì. Poi magari parliamo anche un attimo di quello che sta succedendo a Liberazione, però insomma vorrei partire. Io ho citato l'apertura sia di ieri di Libero, festeggiano la crisi, poi oggi Gianluigi Paragone ha scritto anche di Alitalia, di quello che sta succedendo, e sia l'apertura di Liberazione, il suo giornale, come Gesù bambino, poveri, poveri, poveri. Oggi c'è questa foto che avete messo di una signora anziana con pochi centesimi, si guarda le mani. Lei ha sentito il ministro Matteoli dire che aumenta questo divario, c'è il rischio di aumentare un divario tra chi, quel ceto medio alto, e quelli che guadagna, quelli che ha chiamato rischi di sacche di disperazione, che guadagnano meno. Lei la vede così? Beh, il rischio di divario, diciamo, di aumento del divario è un modo gentile di raccontare le cose, perché il divario sta aumentando in maniera clamorosa è da almeno 20 anni. È da 20 anni che le ricchezze si trasferiscono dal basso in alto, ci sono proprio dei dati che lo dicono in maniera esemplare, ad esempio che 20 anni fa la ricchezza italiana era divisa in circa il 60% era in salari e pensioni e circa il 40% era in profitti e rendite. Oggi è esattamente il contrario, cioè i salari e le pensioni hanno perso la metà del loro potere, erano 60, sono diventati 40 e viceversa i profitti e le rendite hanno raddoppiato la loro consistenza. A questo non ha corrisposto una diversa distribuzione sociale, voglio dire, perché uno potrebbe dire beh, ma i lavoratori sono molti di meno, gli operai sono molti di meno, i capitalisti sono molti di più, e quindi questo no, le cifre sono grosso modo uguali, non c'è stata mobilità sociale. Questo aumento continuo del divario io credo che sia da una parte una delle cause fondamentali della crisi, perché poi questo sistema economico, questo mercato così aggressivo che continuava a drenare ricchezze dal basso e a portarle verso l'alto, a un certo punto si è trovato ad aver mangiato se stesso, diciamo, il mercato in qualche modo ha mangiato se stesso, e lì scoppia la crisi, compresa, diciamo, in parte, perché poi io parlo dell'Italia, ma potremmo parlare di tutto l'Occidente, e che parte non a caso dall'America, dove inizia come crisi dei mutui, cioè la gente non ce la fa più a pagare il mutuo e salta tutto. Da una parte è la causa della crisi, dall'altra ne è l'aspetto più drammatico. L'aspetto drammatico di oggi, diverso, nuovo, non è tanto che aumentano i poveri, i poveri diventano più poveri, i ricchi più ricchi, perché questo già avveniva, ma che diventano così poveri che l'Istat ci dice, badate, ci sono 3 milioni di persone in Italia che non ce la fanno più, non arrivare alla fine del mese, a comprarsi i vestiti, ad avere una vita civile, eccetera, eccetera, ma a mangiare. Addirittura si pone una questione di fame che in Italia non si poneva, credo, negli anni 50. Eppure, intanto voglio salutare, ci hanno raggiunto anche il direttore generale del Censis, Giuseppe Roma. Buongiorno, professore, così come la professoressa Luisa Leonini, che insegna sociologia dei consumi all'Università degli Studi di Milano, la Statale di Milano. Buongiorno ovviamente a entrambi. Vorrei andare per un attimo da Paragone. Paragone, che cos'è, una provocazione quella che ha fatto su Libero ieri, cioè a dire festeggiano la crisi, insomma si parla di crisi e poi centri commerciali pieni, tutto esaurito in montagna, boom di viaggi nelle mete esotiche, oppure è come racconta lei, insomma vedere questo paese affacciandosi alla finestra è un po' diverso che magari leggerlo sui giornali o guardarlo attraverso la televisione? Sì, rispondo subito, però veramente vi chiedo la cortesia, perché io di Sansonetti purtroppo non ho capito. Il volume era basso e secondo me stava dicendo cose interessanti. Vediamo di aumentare questo, grazie. Allora, non era una provocazione, perché altrimenti poi qua finisce sempre tutto che è una provocazione, un gioco. Noi secondo me abbiamo commesso nel corso di questi ultimi tempi alcuni errori. Primo, l'abuso delle parole. Io ho fatto un gioco, sono andato a rivedermi gli archivi del Corriere della Sera di Repubblica dei mesi di dicembre dello scorso anno e di 2 anni prima. E ho letto tante volte la parola crisi, ho visto tanti segni meno e ho visto tante lamentele da parte dei commercianti e da parte del settore produttivo. Era sempre meno e sempre peggio dell'anno precedente. Allora a un certo punto ho iniziato a pensare, ma non è che qualcuno qua inizia a ciurlarci un po' nel manico? Forse sì, e così mi sono preso la briga di affacciarmi dalla finestra. Fuori di metafora, anch'io come tante altre persone mi sono dovuto ritrovare piacevolmente a dedicarmi un pochino, almeno nel weekend, allo shopping natalizio. E quando non era lo shopping natalizio era perché, abitando fuori Milano, dovevo raggiungere Milano, era ogni volta un inferno. Poi ho iniziato anche a leggere alcuni altri dati che parlavano di tutto esaurito in montagna, perché per fortuna quest'anno in montagna è nevicato abbondantemente e si sa, per gli amanti della neve non c'è niente di meglio che una sana e bella pista innevata, non con la neve sparata dai cannoni. E quindi segno più. Il ponte dell'Immacolata segno più. Ho provato a comprare alcune cose che sapevo piacere a parenti stretti e cose assolutamente inutili e futili, come una pedana di videogioco. Ho dovuto girare 3 centri commerciali prima di trovarne una. Allora, secondo me, al di là delle parole che si fanno sulla macroeconomia, c'è un'Italia che non credo che sia assolutamente elitaria, che sta reagendo ad un momento difficile. La parola crisi rischia di essere davvero inflazionata, e quando la crisi ci sarà si consumerà veramente, e io non sono mica qua a fare la cincia allegra o la vispa Teresa e dice no, tutto tranquillo, no, assolutamente, ci sarà assolutamente il rimbalzo di quello che accade altrove, però oggi ancora non siamo in questa situazione, cioè non si vede ancora questo effetto. Credo anche un'altra cosa e poi chiudo, che il fatto di poter ancora accedere a certi beni e a certe coccole, come il viaggio nelle spa, nei fitness, dove è tutto pieno, vuol dire che è un elemento consolatorio, non si può più fare a meno. Allora la grande discussione sarà, ma non è che in questi anni abbiamo alzato eccessivamente l'asticella del nostro consumismo, facendo diventare benessere ciò che in fin dei conti è assolutamente superfluo? A me ha fatto un po' ridere la recente sentenza della Cassazione che impone ad un padre di pagare il cellulare al figlio, perché il figlio minorenne, perché il cellulare è diventato un bene primario. Ma su questo infatti vorrò chiedere tra poco alla professoressa Leonini, voglio dire, che insegna sociologia dei consumi, capire se effettivamente sono cambiate le priorità in questi decenni, le abitudini, quelli che vengono considerati anche beni primari. Per molti anche il viaggio è il bene primario, la voglia di evadere, la voglia di andare lontano, la voglia di staccare con la testa, e capire che cosa è cambiato e che cosa bisognerà riscoprire. Prima però vorrei andare da Giuseppe Roma, come detto direttore generale del Censis. Roma, lei ha fatto un paio di interviste di recente, sostanzialmente riassunte così dai titoli, poi ce le spiegherà meglio. A volte si piange per avere qualcosa, cioè forse, adesso non so se, come dice Paragone, qualcuno vuole ciurlare nel manico, però c'è un'esagerazione della situazione negativa per avere qualcosa da parte degli italiani? Perché è abbastanza, è bella, cioè è provocatoria un po' come tesi, ce la spieghi un po'? Beh, guardi, io sono preso dal fatto che l'ultima indagine Istat sulla povertà è un'indagine di sondaggio, nel senso si è chiesto agli italiani, ma voi ce la fate, non ce la fate? Allora io dico che questo discorso che si fa ormai da veramente tanti anni, la quarta settimana, la diminuzione del potere d'acquisto, è un discorso che ha una base reale di dati, nel senso che il reddito del lavoro dipendente aumenta pochissimo, è rimasto fermo, ma ormai da diversi anni, e quindi naturalmente questo vuol dire che il tenore di vita degli italiani non è cresciuto. Però dall'altra parte, questo parlare e generalizzare una situazione di impoverimento che sente il giornalista, persino un dirigente, l'impiegato, perché viviamo una situazione in cui tutti siamo più, noi abbiamo detto temperanti, cioè la temperanza nei consumi, cioè ci in qualche modo vogliamo cautelare perché vediamo che la situazione è molto critica, finisce per offuscare i veri problemi che hanno delle fasce importanti ma minoritarie della popolazione. Perché quando noi parliamo di povertà non possiamo pensare a un paese che è quello degli anni 60, degli anni 70, e quando parliamo magari anche di problemi di alimentazione, di cibo, di fame, beh, dobbiamo guardare chi sono i protagonisti, che non sono certo gli italiani, non sono certo gli abitanti del centro-nord, sono delle fasce di immigrati, di popolazione che vive soprattutto nel mezzogiorno, di pensionati soli, di famiglie allargate, e rispetto alle quali effettivamente bisognerebbe operare come si fa in tutti i paesi in termini di assistenza, di solidarietà, eccetera. Invece il ragionamento che si fa, che tutti facciamo, è che piangiamo perché in questo modo qualche cosa speriamo di poter ottenere, cioè c'è una dipendenza dalla spesa pubblica e c'è anche un utilizzo della politica, talvolta governo e opposizione, opposizione naturalmente perché mette in evidenza, diciamo, le situazioni critiche del paese, ma anche le maggioranze, nel senso che si spingono gli italiani a dire vabbè, la politica adesso vi aiuta, vi darà una social card, poi funziona o non funziona, vi darà abbasserà le tasse sul lavoro dipendente, ma io il ragionamento era questo, un po' noi italiani ci siamo orgogliosi di non avere una lira o di dire di non avere una lira, poi talvolta le risorse ci sono, magari i problemi anche, e tutto questo però aiuta, come dire, chi fa di professione il gestore delle istituzioni, perché rende indispensabile una funzione d'aiuto che viene dal pubblico. Cioè, siamo anche orgogliosi un po' di stare male per avere, perché sperando che questo dire stiamo male, magari esagerando, può portare a qualcosa anche in termini di vantaggio dalla controparte. Io professoressa Leonini, il viaggio, viaggiare, visto che si parla di boom, delle mete esotiche, di viaggiatori, di molti milioni di italiani che magari per una micro vacanza, più che per una vacanza estesa, sono in viaggio, è considerato un bene primario oppure c'è da rivedere un po' tutta la categoria dei valori, come Paragone ci citava nel caso del cellulare come bene primario citato in una sentenza della Cassazione? Ma buongiorno, io credo che dipenda da quali italiani, cioè gli italiani sono molto diversi, c'è una stratificazione di redditi come è stato detto prima, c'è una grossa differenza tra nord e sud Italia, c'è un ceto alto per il quale il viaggio è sicuramente qualcosa che forse considerano, diciamo, primario ma importante, ma questa è una quota comunque abbastanza minoritaria. C'è poi una fascia di classe media, di redditi medio-alti che comunque fanno delle vacanze magari non esotiche, ma può essere la settimana bianca o altre cose, riducendo magari o tagliando su altri consumi. Non siamo ancora, io sono d'accordo con quanto è stato detto prima, in una situazione di crisi economica così forte come in altri paesi, anche se per esempio la cassa integrazione della Fiat, che adesso ha chiuso e aprirà oltre il 20 di gennaio, apre invece degli interrogativi, cioè io credo che ci sia una fascia di italiani che oggi si confronta con una riduzione del reddito e una riduzione dei consumi. Non è tutta, non sono tutti gli italiani, non sono il nord è meno toccato di altre parti del paese un atteggiamento di cautela è quello che forse vediamo oggi, selezione, maggior selettività, quindi un consumo più attento da questo punto di vista, il che vuol dire che magari il viaggio nella graduatoria personale viene prima di altre cose. In questo è un bene primario, cioè si rinuncia magari appunto, lo stavo citando io, l'abbigliamento, ma non al viaggio perché... Perché così per forse le persone è ritenuto qualcosa di più gratificante alla fine e questa idea di tagliare, di andare, il viaggio è qualcosa che appunto consente di astrarsi da una situazione e quindi da questo punto di vista può essere considerato da alcune fasce, insisto, non tutti gli italiani viaggiano, certo. Anzi lo sappiamo benissimo, può essere ritenuto più gratificante e da questo punto di vista quindi selettivamente scelto al posto di altri consumi quali l'abbigliamento o altre cose. E allora 800 24 00 24 per intervenire. Cito ancora, prima di un attimo di pubblicità, e su questo vorrò ripartire poi da Sansonetti, sempre Luca Ricolfi, oggi partendo da queste le due verità poste ieri sostanzialmente, c'è crisi oppure si sta esagerando e si sta abusando del termine crisi. Sul versante occupazionale, scrive Ricolfi, le cose vanno decisamente peggio, parecchi lavoratori hanno perso il lavoro, le ore di cassa integrazione sono in rapido aumento, moltissimi contratti stanno per scadere e solo una parte verrà rinnovata. Però attenzione a non generalizzare, disoccupati, precari, lavoratori indipendenti non sono tutta la società. La maggior parte dei capifamiglia rientrano in due altre grandi categorie, lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e i pensionati. Per essi, almeno finché conservano un reddito, da alcuni mesi la situazione sta sensibilmente migliorando, perché i loro redditi nominali sono in aumento, come sempre avviene per vari automatismi e trascinamenti, mentre i prezzi stanno diminuendo per la prima volta dal 1959. Il primo ascoltatore, Franco da Padova, buongiorno. Buongiorno, intanto vi ringrazio per la possibilità di intervenire. Per la prima cosa vorrei benedire Ricolfi, che mi sembra che sia l'unico che ha mantenuto una certa lucidità in questo momento che stiamo attraversando. Beh, gli capita spesso. Sì, per fortuna abbiamo gente come lui, Chino, insomma, cioè, è una cosa. Anche io seguo sempre la vostra trasmissione, parlando di queste statistiche, va bene, dite gli italiani ormai è acclarato, eccetera, ma la statistica si riferisce al 2007, sì, e poi bisognerebbe leggere le statistiche. Le statistiche sono basate su domande e su risposte. Bisognerebbe tenere presente quali sono le domande. Mi scusi se la interrompo su questo. Lei dice la statistica dell'Istat, il 5% delle famiglie non ha soldi per il cibo, per mangiare, come diceva Sansonetti. Si riferisce a un anno prima, ma lei lo dice per sottolineare che cosa? Perché forse un anno dopo... Probabilmente che stiamo giocando un gioco al massacro. Ma lei, secondo lei, so che fare una previsione su una statistica è davvero un controsenso, ma se si avesse invece una fotografia di oggi, questo 5% sarebbe di più o di meno? Ma siccome la maggior parte in Italia è diciamo che il reddito proviene dallo stipendio fisso e dai pensionati, sicuramente ci sono dei pensionati che con 530 euro non se la passano sicuramente bene, va bene, ma questi pensionati anche prima di questa crisi se la passavano forse peggio, perché il gas costava di più, l'energia elettrica costava quindi di dice, più. Quindi va un po' meglio secondo lei, se si potesse, vabbè, ma questa è una previsione. Detto questo, Franco, concluda. No, volevo dire appunto che bisognerebbe leggere le statistiche. Ah, va bene. Sansonetti vuole replicare sia Franco sia quello che insomma ha detto anche. Interessante la posizione del direttore generale del Censis, Roma, a dire spesso c'è una voglia anche di lamentela, una tendenza alla lamentela, sì, che poi paralizza un sì, po' il paese. Io capisco tutti i ragionamenti, sono però un po' colpito, diciamo, perché noi stiamo parlando di una cosa precisa, cioè erano nel 2007, probabilmente sono aumentate nel 2008, 3 milioni di persone che hanno problemi con la fame. È una società come quella italiana, diciamo, è un'emergenza drammaticissima. Che vuol dire drammatizziamo? Come drammatizziamo? 3 milioni che dice ma non sono la maggioranza. Grazie a Dio che non sono la maggioranza, ci mancava pure che la maggioranza degli italiani morivano di fame. Dice ma stanno tutti al sud, ho capito che sono tutti al sud, ma per me quelli del sud sono quasi valgono quanto quelli del nord. Dice, ci sono molti immigrati, ho capito, ci sono 3 milioni di persone, dico non io, ma l'Ist. Poi mi dite, ma già c'erano prima, c'erano forse anche, ma è certo che c'erano prima, questo l'ho detto, è da 20 anni che va avanti questa tendenza, si sta aggravando e la crisi rischia di aumentare il numero dei poverissimi. Dopodiché non è che ci vogliono molte statistiche, allora facciamo due conti, un operaio che guadagna 1200-1300 euro ne paga 800 d'affitto, se è monoreddito, secondo voi quante fettine di carne mangia? Un cassa integrato che è sceso a 700-800 euro e ogni giorno ce ne sono dei nuovi, la Fiat ora ne ha messi 50.000 l'altro giorno ne ha messi in cassa integrazione, con 600-700 euro di cassa integrazione, se paga 800 d'affitto sta 100 sotto e non ha ancora comprato la pasta asciutta. Questo sì, non è che stiamo facendo grandi statistiche, naturalmente che parliamo di una minoranza, ma è evidentissimo. E naturalmente ha ragione Luca Ricolfi, esiste una fascia della popolazione che ci guadagnerà molto e sono i ricchissimi, esiste una fascia di popolazione che ci guadagna pochissimo ed è il ceto medio, quello che però Ricolfi dice anche i pensionati, cioè quelli che hanno un reddito sicuro. Sì, c'è un ceto medio di fronte ai prezzi che scende. Guadagna qualcosa, ma questo non cambia la drammaticità della questione, perché noi abbiamo alcune milioni di persone in situazione drammatica, tragica. Allora una società come la nostra si pone la questione dell'emergenza, di intervenire lì, poi vediamo tutto il resto, poi vediamo il sistema economico, ma intanto c'è un'emergenza e bisogna intervenire lì. Devo dire che qualche minuscola cosa il governo l'ha anche fatta, perché nell'idea comunque di dare una social card, di trovare qualche soldino, l'idea se l'è posta che bisogna urgentemente intervenire lì. Dire e badate che è tutto un allarme, ma guardate che è davvero una pazzia, ma com'è tutto un allarme inutile? È un allarme drammaticissimo, poi possono pure in parte il ceto medio aumentare i consumi, non li aumentano, insomma non perdere troppo nei consumi, ma ci abbiamo un problema drammatico di povertà in Italia, come forse non c'era da molti, e si sta aggravando. Allora io andrei da Giulio da Monza, poi da Paragone che ci deve lasciare con qualche minuto in anticipo. Giulio da Monza, un ascoltatore, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, facevo una riflessione rispetto a quello che ha scritto il giornalista del giornale. Forse di Libero? Sì, lo so, sì, lo do sì. Per affinità, diciamo. Sì, sì. Del giornale Libero, non sì, del sì, giornale. Del giornale Libero, esatto. Sì. Una banale riflessione, cioè come si fanno a fare delle affermazioni del genere? Io vedo in giro i supermercati pieni, i negozi pieni e la gente piena, ma sicuramente a Milano, che è una grande città dove gira del denaro e del lavoro e dell'economia, sicuramente qualcuno le spese le fa, ma da qui a dire che l'Italia stia bene mi sembra una roba veramente azzardata. Questo io non ha detto comunque paragone. Come le statistiche dell'estate, 12-15 milioni di italiani in moto, in macchine, autostrade piene, ma signori scusatemi, ma anche se fossero 20 milioni di autoveicoli, gli italiani sono 60 milioni, 20 milioni è neanche un quarto. O è un quarto, un terzo? Vabbè, insomma, poi se stanno in due macchine, ma gli italiani stanno a casa. Comunque, lei, Giulio, contesta con statistiche. Ma magari quest'ultima. Male, quest'ultima. Ma sono statistiche strumentali. Va il bene. Fatto, mi scusi, volevo finire. Sì. Il fatto che fanno delle statistiche ad uso e consumo, per quello che sia un'idea o un'altra, è poco rilevante. La verità è che comunque la situazione non è assolutamente bella, anche perché qui si continua a lavorare e ad essere pagati in lire e vai a comprare in euro, non funzionano i servizi sociali, si continua a essere in ballo a categorie sindacali anarchiche e assurde che non fanno assolutamente niente. Vabbè, sono Giulio, servizi che noi strapaghiamo. Giulio, ho capito tutto, insomma, adesso sta finendo un po' in un calderone. Paragone, però rispondo a Giulio da Monza, insomma, che la critica, quella che mi interessa di più, è quella di dire, insomma, non si può da dire ci sono i supermercati, la gente che spende, a dire che va tutto bene. Cosa che peraltro l'ho detto, lei non l'ha detto, però insomma, la critica era questa. Se lo dico io sono un mona, se lo dice Ricolfi è un genio. Ricolfi e io diciamo esattamente la stessa cosa, cioè attenzione a non avvolgersi in un loop negativo, quando poi alla fine tu stai vedendo in giro che per fortuna i consumi ci sono, e poi infatti trarremo le conseguenze quando l'anno prossimo magari ci troveremo con la crisi dei rifiuti per i troppi regali e per la troppa immondizia generata dal dopo feste. Ma di solito appunto accade sempre nei mesi di gennaio. Nel mese di dicembre accade un'altra cosa, che tutti piangono, a cominciare dai commercianti, a cominciare dagli altri che dicono, che mettono sul disco, c'è la crisi, non abbiamo soldi e quant'altro. Vorrei dire una cosa, questo qui è un paese che dice le bugie al prete e al fisco, figuriamoci ai sondaggisti dell'Istat. Questo è un paese che secondo me, andrà detto una volta per sempre, con grande nettezza e con grande chiarezza, ha il più grande ammortizzatore sociale di cui nessuno parla, che si chiama Nero. È vero che l'operaio guadagna quello che dice Sansonetti, ma è altrettanto vero che spesso la moglie dell'operaio fa dei lavori, sono dei lavori generalmente in nero, come domestica piuttosto che come collaboratrice da altre parti. È altrettanto vero che laddove c'è una cassa integrazione ci sono degli altri lavori di fino, di ritocco, che consentono di allargare il portafoglio. Io dico a questo punto ben venga, perché se questo è lo Stato che non riesce a ridurre il debito pubblico, ogni cittadino si arrangia come può, ma grazie al nero questo paese buca qualsiasi cifra, qualsiasi sondaggio e qualsiasi stima ufficiale, perché altrimenti non si spiega il motivo per cui nel meridione, che è sempre con un segno negativo ed è sempre in ritardo rispetto ad ogni area dell'Europa, non dico dell'Italia, il tenore di vita del mezzogiorno io direi che è abbastanza alto, e lo dice uno che ha ancora un sacco di parenti nel mezzogiorno, e lo dice uno che vede anche alcuni bilanci, per esempio mi stupiva l'altra volta un bilancio di una nota ditta di abbigliamento e di scarpe, quindi di un grande gruppo, non del lusso ma di un bel brand, che vende a Napoli più di quello che vende a Milano. Qualcosa, scusate, ma non torna. E allora, io, Giuseppe Roma del Censis, ieri ho letto un'interessante analisi sul Riformista, a dire che per la prima volta questo è un Natale anche diverso. In genere al Natale che cosa si diceva in passato? Ah, non consumate, il consumo responsabile, insomma è Natale, chi faceva troppi regali magari veniva visto con una luce un po' con un occhio un po' storto. Questo è il primo Natale dove consumare, almeno c'è stato anche l'invito del Presidente del Consiglio, consumate italiani, spendete, perché se no c'è la crisi, bisogna mantenere alti i consumi. Ecco, anche questo dal punto di vista sia sociologico che anche economico è una percezione diversa, per la prima volta a Natale in cui si invita a consumare. Secondo lei che riflessione le fa fare un invito efficace, per esempio? Ma no, secondo me è un invito ansiogeno che non fa che confermare quest'area depressiva, perché è evidente che se tutti quanti veniamo sollecitati a spendere come se questo fosse poi in effetti la soluzione di tutti i problemi dell'economia, è un po' come mettere i soldati con i mitragliatori davanti alle ambasciate, che certamente può anche funzionare, però crea nel cittadino il senso che ci troviamo in una situazione di totale emergenza e di un'emergenza quasi incontrollata. Cioè poi alimenta quella spirale che porta poi al pessimismo di cui lei ha detto. Io dico di sì, e non so quanto efficace sia questa logica dei consumi, nel senso che è evidente che un paese come il nostro, il motore dei consumi ormai da 6 o 7 anni non è il motore che fa guida lo sviluppo. Sappiamo bene che se l'Italia è in piedi e il sistema delle imprese, noi poi siamo tutti Fiat dipendenti, per cui è chiaro che la Fiat è molto importante, e quello che succede alla Fiat è importantissimo, la cassa integrazione. Io sarei più attento a guardare anche tutto il resto, tutte quelle altre imprese che poi sono il vero motore e la vera spinta dell'economia, cioè quelle che esportano, circa 6.000 imprese che ormai sono presenti nei mercati stranieri, che il 67% di quello che producono all'estero vendono all'estero. Questo è un dato importante. Quindi noi fino ad oggi abbiamo lavorato sulle esportazioni, sull'internazionalizzazione, e se l'Italia sta in piedi è perché ci sono centinaia di migliaia di imprese, sì, anche piccolissime, che questo fanno. Io, sul fronte dei consumi, siamo sempre stati molto, molto bassi, e oggi la vecchia ricetta, parte dei consumi e parte dell'industria, fa un po' ridere, perché sembrerebbe che quello che noi compriamo lo produciamo in Italia. Io credo che le cose che compriamo di più, dalle tecnologie fino ai prodotti sono importazioni di largo consumo, allora il problema è l'intermediazione. Allora, pensare di fare il PIL con l'intermediazione commerciale è certamente, sono funzioni importanti, e invece noi abbandoniamo tutta un'area, che un'area di cui nessuno parla, che è quella dei servizi alla persona, ma anche dei servizi di carattere generale, dei servizi privati, dei servizi pubblici, che sono il vero buco nero di questo paese. E quindi la gente oggi gran parte del suo reddito non lo dà in affitto, perché sappiamo che il 15% degli italiani sono in affitto, ma lo dà in utenze, in bollette, che certo adesso... questa è la settimana del buon umore, sta diminuendo la benzina e il gas, sì, poi magari fra un mese sarà quella del malumore, sta aumentando la benzina, di fatto che praticamente circa la metà dei consumi degli italiani non rappresentano una scelta, sono obbligati. Un ascoltatore, Sergio da Genova, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, cerco di sintetizzare in pochi secondi quello che ci bisognerebbe, benissimo, discutere per ore, perché la crisi è esattamente proporzionale, secondo me, all'inflazione che praticamente c'è, soprattutto della carta stampata, delle televisioni e delle radio, mi riferisco ai notiziari, dove c'è necessità assolutamente di enfatizzare qualsiasi tipo di notizia, perché la crisi, secondo me, è stata più procurata praticamente dai media che dalla crisi reale, in quanto, lasciando... Anche questa è una bella tesi provocatoria, No, ma guardi, proprio velocemente io... Provocata addirittura, magari si può dire enfatizzata. Enfatizzata. Provocata. Ho usato un parolone, ma perché sono abbastanza arrabbiato. Sì. Vorrei tenere spente sia le televisioni che le radio e non leggere i giornali. Allora, tanto vi dico, ieri un vostro ascoltatore ha cercato di dirvi: io mi occupo di distribuzione. Allora, io quest'anno praticamente non riusciamo a consegnare tutta la merce che praticamente sta circolando, e questo è un messaggio come sono i messaggi, quelli dell'8 dicembre, quello del... Io vi faccio un esempio, ho cercato di affittare una casa o un posto in albergo degli amici in montagna, per Natale non c'è stato niente da fare, vi sta parlando un lavoratore, io vivo di stipendio. E vi assicuro che chi dovrebbe essere arrabbiato di tutto questo sono veramente quelle fasce deboli che ci sono sempre esistite, sì, che chiaramente a questo punto dicono: caspita, si sono accorte di noi, ma esistevano 10 anni fa. Ma guardi, Sergio, lei pone un problema che è quello della spaccatura, se vuole, sociale, che sicuramente è concreto. Voglio dire, chi vive di reddito, chi ha uno stipendio, chi è dipendente, come lei ci ha detto, come sono io, sicuramente di fronte, per esempio, a questa discesa dei prezzi può trarne anche vantaggio. È chiaro che invece quelli che hanno magari un contratto a tempo e quindi non rinnovabile, quelli che sono magari gli immigrati, le fasce più deboli, le fasce più precarie, quelle invece soffrono di più, perché se viene a mancare quella fonte di reddito, allora c'è. Però, professoressa Leonini, insomma, Sergio da Genova segue il filo che sostanzialmente ha detto anche Libero, a dire addirittura c'è questa enfatizzazione, poi dopo in montagna tutto pieno, c'è questa esagerazione della crisi, insomma i consumi ci sono da parte degli italiani, sbaglia Sergio? No, nel senso, come è stato detto anche prima, non possiamo generalizzare, certamente ci sono fasce della popolazione che stanno bene e che forse anche anzi nel breve periodo hanno dei vantaggi, perché diminuendo i prezzi si trovano in una avendo uno stipendio garantito si trovano in una situazione di vantaggio. Però per esempio il calo della produzione industriale significa anche calo delle opportunità del lavoro nero. Non è vero che chi è in cassa integrato integra col nero, perché se c'è una situazione di calo della produzione calano anche tutta una serie di settori, l'indotto attorno alla grande cosa. Ci sono le persone che vivono le fasce deboli che si trovano in una situazione di emergenza e di difficoltà, come certamente non da oggi, ma questo è un gruppo sociale che aumenta, perché per esempio la popolazione anziana in Italia aumenta e noi sappiamo che gli anziani soli sono appartengono a queste nuove fasce di povertà o di strati a rischio, così come i padri separati, così come le famiglie a monoreddito. E poi ci sono le prospettive, perché io credo che una delle preoccupazioni per le famiglie, anche quelle che hanno un salario garantito, hanno un reddito fisso e quindi stanno bene, in una situazione di recessione economica si domandano cosa succederà ai loro figli, e quindi una certa preoccupazione io credo che emerga. Secondo lei, visto che nel 2009 si dice arriverà la crisi magari tanto annunciata e che invece la cui onda arriverà più l'anno prossimo, in che cosa si ripercuoterà dal punto di vista dei consumi? Lo so che magari è una domanda così molto generalizzata, però secondo lei i beni che soffriranno di più? Lo vediamo già adesso nel trend, che proporzionalmente aumenta la quota per i consumi alimentari, che sono quelli diciamo che sono più difficilmente comprimibili. Si taglierà su tante cose del superfluo. Ora, il superfluo è diverso, per esempio ne parlavamo all'inizio della trasmissione, per qualcuno si taglia più facilmente sulla di quanto si tagli sulla vacanza, cioè dipende. O sul cellulare, c'è sempre questa immagine, gli italiani però il cellulare ultramoderno ce l'hanno sempre, vuol dire che non è superfluo per gli italiani. Allora, il cellulare come utilizzo, come strumento, non è necessario, per esempio, è un bene primario degli immigrati, perché non avendo una fissa dimora devono essere anche per trovare un lavoro reperibili. È ovvio che invece il cellulare di ultima generazione o la tecnologia più sofisticata sono un discorso diverso, che riguardano però delle fasce abbastanza ristrette della popolazione italiana, perché quando andiamo a vedere l'utilizzo di internet o di certi strumenti vediamo che l'Italia nella classifica dei paesi europei non è poi in alte posizioni. Io vorrei andare da un'ascoltatrice a Trieste, Eva, poi da Sansonetti vorrò chiedere insomma cosa sta succedendo a Liberazione. Eva da Trieste, buongiorno. Buongiorno a voi, mi viene da piangere sentire gente che dice che l'ammortizzatore sociale è il lavoro nero. Qui al nord-est, proprio profondo, la crisi è da tempo presente, ma ultimamente proprio grande. Guardi, diciamo l'esempio logico familiare, una madre di 43 anni, figlia mia, con una figlia di 13 anni, 1.200 euro al mese assistente sociale in una casa di riposo, 600 di affitto, non parliamo di cure sanitarie, non parliamo di problemi di scuola, di tutto. È un po' la fotografia che ci diceva Sansonetti, 1.200 euro, ecco, 600 di affitto. E un'altra cosa, mio figlio lavora in un negozio di frutta e verdura, 1.200 euro al mese, ci sono 2-3 mesi che il padrone non può pagare. Perché non arriva a pagare i dipendenti? Ditemi voi se l'Italia veramente non è in crisi. No, ma Eva, lei pone come al solito il problema, che è il problema un po' della trasmissione. È chiaro che dal suo punto di vista e dal racconto di questa storia l'Italia è in crisi. Si pone il problema se dal racconto personale suo, di sua figlia, di suo figlio, si può generalizzare a dire è un paese, o se sta esagerando a dire è un paese in cui c'è la crisi. È chiaro che vista dal proprio punto di vista ognuno ha una storia da poter raccontare. Sansonetti, che succede a Liberazione? Lei è direttore di Liberazione, lo sarà ancora, di recente ha detto ci starò ancora 20 anni. Sì, Sì. Al volo dire che concordo perfettamente con l'intervento della signora e volevo far notare che il lavoro nero, che fino a qualche mese fa magari per 10 ore, se ti spaccavi la schiena per 10 ore, davano 50 euro, ora siccome ce n'è molto di meno te ne danno 40, quindi fra l'altro aumenta lo sfruttamento. A Liberazione succede che da quello che noi sappiamo la proprietà, cioè TRC, il Partito di Rifondazione, ha deciso di venderla a un editore privato. L'editore privato sarebbe, anzi perché ci sono, che sta trattando, è Luca Bonaccorsi, che è il proprietario di un settimanale che si chiama Left, però un settimanale in grande difficoltà, in una situazione molto difficile, tra l'altro ha subito il sequestro della testata da parte della magistratura, c'è molte cause sul lavoro, quindi diciamo è un editore che noi consideriamo del tutto inaffidabile. C'è una lotta diciamo aperta, perché noi della redazione pensiamo che vada difesa la libertà e l'indipendenza di questo giornale, perché pensiamo che non sia possibile fare dei giornali se non si è indipendenti. I giornali devono essere indipendenti e liberi anche se appartengono a un partito. Il fatto che appartengano a un partito o a un editore privato o a un imprenditore o non cambia la natura del lavoro che noi facciamo, che è il lavoro di informare liberamente i cittadini e di permettere di discutere, di aprire dibattiti, eccetera, eccetera. Succede anche, insomma, che c'è uno scontro, possiamo dirlo, quando lei dice il proprietario di Liberazione, il PRC, insomma, è Ferrero, e sappiamo che lei non è della stessa corrente, è più un bertinottiano, un vendoliano. Io non sono iscritto a questo partito, sono iscritto ai partiti da molti anni, faccio appunto, siccome faccio il giornalista, mi considero libero dal... Fui chiamato in questo giornale 4 anni fa dall'editore, cioè dal partito, allora il segretario era Bertinotti, che sapeva che non era iscritto al partito, che conoscevo le mie idee, col quale il discorso fu molto chiaro. Io vengo se bisogna fare un giornale libero, se bisogna fare un bollettino e bisogna che trovate un funzionario di partito che lo faccia. E Bertinotti mi chiese di fare questo, di fare un giornale libero, di raccontare quello che volevo. Questo Liberazione è un giornale che è andato contro Bertinotti, contro il segretario del partito quando stava al governo, più volte ha detto da questo governo bisogna uscirne, può continuare a esistere solo se è un giornale libero, se no diventa una cosina. Io ho l'impressione che in questo momento Liberazione sia l'unico organismo vivente a sinistra dopo la disfatta di quest'estate, e che penso che poi con Ferrero si riuscirà a ragionare, perché è una persona ragionevole, bisogna che insieme ci mettiamo per salvare questo giornale, per lasciarlo un giornale libero e indipendente, una voce importante nella stampa italiana e un punto di aggregazione molto importante per la sinistra, se no sarebbe davvero una specie di suicidio. Allora, io mi devo fermare, voglio ricordare che domani e dopodomani, Natale, Santo Stefano, ci sarà Viva Voce, condotto dal nostro direttore Gianfranco Fabi, settimana prossima ci sarà invece Simone Spezia a condurre, io tornerò il 5 gennaio, insomma Viva Voce comunque continua, e dunque a domani.